angele, note mie somare. Mille feneste scurano lontane. Luce una sola ancora, l'amore mio c'è sta. Un luogo lassa tutte se rinnovata e me saluta alle trema voce notte che pace dà notte che paie sonna fa che notte che mare, notte piscatore, e che mastrigne non me lassa ancora. Notte che pace daie, notte fammi abbracciar, a chi m'aspetta. Io smano.